SSPT Senka, forma, José Cuervo, Ogre, ehi, sti qui non comandano più un cazzo giù da noi, cronache dall'isola. Che rompe l'equilibrio che impostato dall'alto lo manda a monte. Il progetto d'alta società che infonde il rigetto nostro SS in contrapporto a Torres. Abbiamo diverse discariche, varie problematiche. Informati, analizza le dinamiche. Vogliono costruirci già la nostra lapide, ma garantisco che le nostre morti non saranno rapide. Circostanze di guerriglia giù nell'isola, uomo contro uomo perché la razza è carnivora. Fanculo chi si limita, noi troppo onesti per fare politica. Siamo un esercito che si moltiplica. Il nostro territorio chiama, questa è guerra. Vieni nella mia riserva, non so quanto ti convenga. Vige l'astio, me ne danno la conferma. Gli animali che mi seguono, simografia sta merda. Questa è la mia terra dove ero con te vivo. Oggi clima di tensione come un F negativo. Vivo con l'odio puro nella testa, rivolta a chi vuole controllo della mia terra e poi se ne impossesse. Tu vieni a farci festa con Briatore Berlusconi. Se strada tua privé al bilionaire a spendere i milioni. Noi come cani, ma in realtà siamo signori. Sputiamo su chi comanda e governa per poi buttarci fuori. Tu che ne sai di me, della mia gente? Qua inquinano la terra per promuovere il contante. Ma non cambio un cazzo, qua peggiora la situazione. Preso per il culo da chi governa e ride sulla costituzione. Al giorno d'oggi sono solo una pedina, figlio di un sistema che mi mette in croce e mi rovina. Che non sistema né figlio e né famiglia. Noi verso la crisi e chi governa mangia meraviglia. Noi non abbiamo privilegi e siamo qua per lasciare sfregi. È per questo che non ci reggi la mia terra, il mio marchio. Non ti guardano bastardo, non puntarmi, punta un altro. Attacco quello che è del branco. Noi non abbiamo privilegi e siamo qua per lasciare sfregi. È per questo che non ci reggi la mia terra, il mio marchio. Non ti guardano bastardo, non puntarmi, punta un altro. Attacco quello che è del branco. Cronache di guerra dalla terra di chi viene a fare l'ordio. Lo so che tu sai che io do 100% di merda a chi mi vuole fare fesso con il cash. Italian go on, non ci sto, non ci sto con la testa. Volte strane a bestia, morto che parla inchiesta. Sequestra imprenditori e signorotti, botti e morti. Sei, ci siamo rotti di chi viene in holidays a sfruttare i nostri posti. Noi sardignoli petrolchimici, troppo ottusi perché tu non puoi convincerci. La mia gente non apprezza chi si impone tramondezza e corruzione. Alza i tacchi e torna al lato a cazzo di nazione. Questa è Sardegna a quattro quarti, ostile ai tuoi riguardi, non ti biasi. Ridicoli pagliacci, me ne sbatto del governo, a casa non governa, del tuo potere sai, la mia terra se ne frega. Hai presente quando parlo di Sardegna? Bella vita, porto cervo più la fregna. Io ho presente quando parlo di Sardegna? No, non lavoro, crisi nera che ci segna. Connessione, Sassari PT, Senka, José Cuervo, Rebel Forma, Piergo Beat. Quattro mori nel mio cuore e nella testa, dan valore ad ogni sardo che si presta e lascia la sua terra per chiedere cosa? Condizioni migliori per vivere. Quante volte abbiamo dato, sputato, e conta le persone che ci hanno ricambiato. Poi cambio volto, cambio strada, cambio isla, metto fuoco al tricolore come in Islam. Chiudo qui lasciando il trascurabile e KL sulla strumentale insuperabile. Noi non abbiamo privilegi e siamo qua per lasciare sfregi. È per questo che non ci reggi la mia terra, il mio marchio. Non ti guardano bastardo, non puntarmi, punta un altro. Attacco quello che è del branco. Noi non abbiamo privilegi e siamo qua per lasciare sfregi. È per questo che non ci reggi la mia terra, il mio marchio. Non ti guardano bastardo, non puntarmi, punta un altro. Attacco quello che è del branco.